mondo, ma senza grana, questo sì che è un bel sogno. Mi sono trovato a riflettere un sacco ed ad un certo punto sì, scacco matto. Fine del gioco, fine alla partita, per una pedina ci ho rimesso la vita. Turbato da soliti scazzi, circondato, ormai passato, tutto questo è passato. La mente più matura, non puoi andare contro natura, rischia lo stato anch'io. Non maledico, di certo Dio, anni passati in compagnia dei miei carichi spariti, chi ritrovati, ho voglia di ricominciare come prima. Testa sulle spalle fino a domattina, fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante è fare le cose col cuore. Fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante è fare le cose col cuore. Il cuore ce lo metto in tutto quello che faccio, spaccio solo rime, ti assicuro nient'altro. Scatro con le tipe, invece questo è un disastro. Astro nascente, te lo giuro senz'altro. Faccio solo il bene qualche sera con l'alcol, in compagnia di amici se ne beve dell'altro. Salto sopra un palco e per questo mi esalto. Salvo con la nave questo lungo viaggio, all'arrivaggio, per riuscire allo scoperto. Un giorno ci riuscirò, stanno gerto, ma il radio io continuo e non mi arrendo. Spendo il mio denaro solo in quello che sento, spendo il mio tempo solo in quello che voglio. Non mi interessa d'aver gonfio il portafoglio. Foglio per foglie, fischi per fiaschi, un giorno sentirò tutte vasti. Basti pensare ai progressi negli anni, quanti sbagli quando ha solo 15 anni. Ti fa chiamare ragazzo, povero pazzo. In quegli anni non ho mai capito un cazzo. Fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante fa le cose col cuore. Fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante fa le cose col cuore. Fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante fa le cose col cuore. Fino a domattina, fino a domattina. Testa sulle spalle, ho la partita, chi uscirà battuto, chi vincitore. L'importante fa le cose col cuore.